E Walter ne ha tante di radio, ma lui le fa girare ogni tanto, perché lasciare ferme se no si inchiodano, eh? Ma come fai lì, Marco? Lì sono tantissime, tantissime, ogni tanto so che ne prende qualcuna, o lui o chi va lì, insomma si divertono un po' a cincischiare e fare, però ne ha tante, capito? Quindi insomma viene anche un po' male, perché devi avere un posto. Io essendo lì avrei fatto un a girare, anziché tutte così in vetrina, io avrei fatto in giro tutto parete, avrei fatto tutto basi con avrei fatto una cosa spettacolare, tutto basi con le sedie che puoi spostarti eccetera, e tutte le prese a muro a 12 a 220 con tutte per dire diversi alimentatori, 7, 8, 10 alimentatori, dove vai ad agganciare un po' di radio con le commutazioni dell'antenna, una, due antenne, tre antenne, quello insomma ci voleva per farle andare un po', non dico tutte, ma almeno la metà, ma avrei fatto una cosa molto più bellina. Lì sono tutte, sì, messe bene, chiaramente, sicuramente, non lo so, io da tanto non ci vado, però cosa molto bella quella che è lui, ma organizzata male avrei fatto diversamente, avrei fatto tutte le basi in legno fatte veramente bene, le radio le avrei messe tutte a livello di funzionamento. Oggi voglio usare queste e uso queste, ti siedi e stai parlando con un sistema di commutazione d'antenna fatto alla perfezione. Lui ha deciso così, pazienza, io me lo sto facendo così, capito? Sto agganciando l'altra base, guarda questa che mi ha fatto Giulio, ho comprato i piedi, la sto mettendo sull'altro lato e faccio proprio una U in giro dove io sto all'interno e lavoro. Da una parte c'ho tutta la parte amatoriale, dall'altra parte c'ho tutta la parte CB con il vintage. Sono rientrato. Ehi, Robert, riprendi. No, ha fatto vedere quell'amico nostro un po' di radioline, dai, anche lui c'ha belle cose, dai. Ci vuole spazio naturalmente per distribuirle, come hai detto tu, però è bene ogni tanto accenderle, perché tenerle ferme poi si rovina. Io robe ce le ho tutte sotto alimentazione, quelle che ho, ce le avevo già prima, e adesso sto aspettando il tempo bello per montare un'altra mantova, ecco perché sto togliendo le direttive, non me ne fotti nuda, al posto delle direttive monto un'altra mantova, stessa altezza di quella che ho, lì, e metto, ho già ordinato due commutatori grossi, da 8 più 8, capito? Dove aggancio l'antenna e faccio tutte le radio, quelle che voglio usare uso giorno per giorno. Ogni radio tiene conto che c'ha il suo microfono da tavola, non ne voglio io stronzate di microfono a palmo, ogni radio ha tutti i suoi microfoni da tavolo. Sì, è meglio che sia così, ogni volta stare a staccare, a fare, a spostarsi, è un rompimento di scatole. Sì, vabbè, io mi sto organizzando così, la mia è una stanzetta che però ci stanno benissimo, viene un bellissimo lavoro. Lo dovevo fare da prima, solo che poi ho avuto problemi e quindi ne ho tolto tutto. Adesso lo sto rimettendo com'era, anzi sto aggiungendo un'altra base. A proposito, guarda che mi serve anche quella che ti ho chiesto, la base, Robert. Quale base? Di cosa parli? Di quella che abbiamo visto in garage da te, ti ricordi? Quella piccolina. La base che abbiamo visto? Boh, non ti sto seguendo. Sugar. Ti sta prendendo a te, ti sta prendendo, guarda, sicuramente ti sta prendendo. Abbiamo visto quel tipo porta computer. Ah, stavo pensando a base di antenna, base. Sto parlando di base in legno, cazzo, tu mi cerchi la base dell'antenna, vabbè, minchia. E mi ha detto, devo cavare la ghita antenna, devo mettere quella, guardate, io pensavo che si parla di un'antenna base, nel senso una base magnetica, cosa. No, devo montare un'altra mantova, la sto già preparando adesso. Te l'ho detto, già abbiamo parlato l'altra volta, lo viene da te che nel piantone ci vanno delle boccolette in alluminio, ecco. Una volta fatte quello devo solo innestare i radiali, basta. E poi la monto, la piatto al posto delle direttive. Lì va tutto smantellato. quel sistema mi serve per tirare su l'antenna e lì attacco tutti i vintage. Dai, ma già ce ne sono di cose, se vuoi delle basi oltre a quella lì, quella c'ha le ruote, io ti consiglio di tenere le ruote, perché se la devi spostare, fare pulizia da dietro, come ho fatto io, l'hai vista la base mia, è grande, sono 3 metri abbondanti di coso, è tutto con le ruote, ti prendi tutto dentro, ci sono 4 ripiani, sputi, se devi entrare dietro, devi fare un collegamento e non ti da rompere le scale. No, ma quella mi serve solo per il computer, Roberto, perché il monitor del computer adesso è all'angolo sopra il DAC, quindi a quel punto lì il computer va solo in quel coso lì, capito? Che è un portacomputer, deve lavorare a portacomputer, che lo metto all'angolino dove c'è l'armadio. L'altra parete la devo sfruttare tutta uguale a questa, che è da 2,10 m x 90 m, la devo sfruttare tutta per mettere i vintage. Sì, poi ti puoi fare dei ripiani, hai visto come ho fatto io? Ti prendi la cosa, te la fai tagliare a misura con quel legno nobilitato, con gli angoli smussati, come ho fatto io, poi ti metti i piedini, io me li ho messi quadrati, ci sono di diverse altezze e poi ci inserisci le radio dentro, hai visto come ho fatto io? È modulare, puoi fare tutti i ripiani che vuoi. Mi assento. Sì, ma se non la fate Giulio, a me cosa devo fare io? Non la fate Giulio i ripiani, il noce macello, no, non il legno truciolare, no, con i piedi, tutto, cioè tutto fatto da falegname, tutto fatto da Giulio, le basi non sono fatte da Giulio, io ho comprato altri 2 piedi perché praticamente la cerniera sta sotto, ho staccato la cerniera, mi servono altri 2 piedi, e siccome grigi non ci sono, cromati grigio come questa non ci sono, e quindi non potevo mettere 2 neri e 2 grigi, allora li ho presi tutti e 4 neri, capito? E l'altra base uguale a questa dove io ho le radio, va nell'altra parete, ma è tutto uguale, stesso colore, stesse basi. Quel carrello che c'è tu mi serve come porta computer, perché il computer non lo voglio più vedere vicino alla radio, non mi interessa, quando mi serve lo accendo per fare altre cose, io non sono collegato sulle radio, non ho sistemi che hanno gli altri radioamatori, ma non me ne frega niente, quindi lo uso solo come computer e basta, capito? Ecco perché mi serve quel ripiano lì a parte, quella è una cosa a parte, perché se va via l'armadio che è all'angolo, lo tolgo e lì metto il computer e il resto tutto radio. Ma mi pare, Cla, oltre la cosa, c'ha il carrellino per mettere la tastiera sotto, dovrebbe avere quello lì, e sopra c'ha 2 mensoline, se non sbaglio. Sì, dove ci mettono le colonnine, gli altoparlanti, poi al fianco c'è il per il porta case, no? No, non ce l'ho visto, è bellino, quello lo puliamo, lo pulisco lì e poi me lo porto a casa, Roberto. E lo uso solo per il computer, capito? Basta, anche perché poi a parete, io ho la TV grande da 46 pollici, quindi siccome è abbastanza alta, sotto la TV ci va la base a questa altezza dove io poi scarrello con le 2 sedie che ho, una sedia lascio fissa dove c'è la parte amatoriale, l'altra invece scarrello con l'altra sull'altra base. Viene un bel lavoro, ma non l'aveva consigliato Massimiliano, perché prima era cernierata sotto, praticamente era una L, quindi non potevo mai aprire aprivo la finestra, ma dovevo passare dietro, eccetera. Invece adesso a U è molto più bella e c'è più posto. Sì, sicuramente è più funzionale, dai. Ok. E Luca, ci sei ancora avanti? Sì, sono qua. Ho rispedito un pacco indietro, adesso mi controllo, saranno già spedita, mi ha dato il codice, dai, controllo un attimo. Adesso sono qua in ascolto, io ho già cenato. Che io mi ho mangiato 2 pizzette poco fa, quando stavo salendo, ho detto che avevo fame, me le ho preso anche io, si può dire ho mangiato, ho fatto una Macedonia, c'era veloce, dai, una cosa leggera. Chi c'è? C'è qualche donato qua sul 10? Macedonia, anche tu? Hai visto come sono sceso io, eh? Un figurino, 10 kg sono sceso. No, ho fatto il scherzo, ti ho trovato un pochettino più snello, dai. A me mi hanno detto, oggi è venuto una cliente che mi ha visto prima del coronavirus e mi ha detto, ah, hai preso un chilo, non me ne sono manco accorto. 10 kg sono sceso io, Roberto. 10 kg. Ero 90, ne peso 80. Devo ancora scendere, devo arrivare a 78, 77. Sì, mi sono svuotato completamente. E sono contentissimo perché mi sta molta roba che prima non mi mettevo, sono più agile, sto meglio fisicamente. Sono sempre lavoro a casa e buh, capito? Già mi hai visto, la mattina passo da te. Basta, 2 chiacchiere, 2 cose, poi porto il cane e mi rinchiudo dentro casa. Basta. così. Va bene. Dicevo, non è entrato nessuno in stasera già. Io sono invecchiato, scusa Claudio. Sì, c'era una bella ruota, basta. Una bella ruota. Io pure ero impegnato qua perché poi è arrivato il corriere, stavo sballando sta roba, mettendola a posto, mi ho pulito tutti i microfoni, meglio sistemati tutti dentro l'armadio, quelli che ancora non uso. Poi man mano che arrivano la radio li metto, capito? Se c'è da fare i collegamenti li faccio, ma il più sono tutti a 4. Ne ho, per il momento me ne sono arrivati solo 2 a 8 che abbiamo fatto assieme, quella, l'adattamento sul tenere più 2 da tavolo con, per il K, che abbiamo cambiato l'impedenza alla capsula, e l'MB più 5 a 8. Basta, gli altri sono tutti a 4. Anzi no, 1 a 5 me ne è arrivato, 5 punte. Che vediamo se mi arriva qualche radio con 5 punte, ci inserisco quello delle game. Ma da dove sono arrivati questi microfoni qua? Vicino Olbia. Ah, qua in Sardegna, non era fuori da lontano. No, vicino Olbia. Te l'ho detto, guarda. Mi ha fatto schifo da uno che sono andato, uno che si reputava collezionista, mi ha parlato in questa cantina, c'era di tutto. Ha iniziato a togliere questi teloni, queste cose. Certo, c'erano le radio, tutte mangiate dai topi, credimi. Sai le radio, quella che sono in legno, è trucciolare, no? Vecchio legno, vecchio trucciolare. Certo, tutte mangiate dai topi, una ci aveva il buco. Ho detto, cazzo, non pino, ci sia il topo dentro, zeraietti, guarda, te le do, ma non ne voglio neanche vedere, ma io mondezza non ne voglio, io la mondezza la butto nel cassonetto, queste sono da buttare via, ma non ti vergogni, ma che cazzo di collezionista sei tu? Tu sei collezionista di mondezza. Non era un radioamatore. No, non era un radioamatore. Si reputava un collezionista, no? Io ho degli agganci, mi sono iscritto a un sito appunto di collezionisti vintage, questo si reputava collezionista. Tu collezionista, se vabbè, sto venendo a Olbia. Sono andato poi, non è a Olbia, è una frazione vicino a Olbia, è a Murta Maria, per farti capire. Cazzo, ma uno schifo, così non l'ho mai visto in vita mia. La cognata lavora a Murta Maria, no, già la conosco bene, ci vado spesso io lì. Ok, e cosa c'era di radio in particolare, a parte le cagate? No, belle radio aveva, belle radio, veramente. Mi sono scese le lacrime, c'aveva un Royce, la prima serie, che forse c'era solo Walter, perché la seconda serie gli aveva dato io quella a 3 strumenti o a 4. Questi erano 2 strumenti, la prima serie, che era nuovissima, tutta maniera della regione che ti ho detto, i cassoni, il legno, non esistono più, il top. Dove trovava legno mangiava, quelle in ferro erano un po' così, ma quelle in legno erano tutte mangiate dai topi. Oh vabbè, che fianchi a me, quello che mi ha dato Luca, se tu lo vedi sembra che non ha negozio il mio Royce, che li ha fatti Giulio, i fianchi in legno, il legno tucciolare rivestito, dai, ma sembra che non ha negozio, un nuovo fiammante, quando l'ha preso Luca era un mutinaggio. Se sono i fianchi già si possono sistemare, se le paghi 20 euro non di più l'una, a livello di estetica poi te la sistemi, ti metti i ripiani laterali. Ma cosa, vabbè, finiscila, ma non solo i fianchi, ma anche sopra, ma che bello vedere cose del genere, ma non mi interessa, io voglio roba, te la pago, ma voglio roba seria, cioè roba pulita, roba ordinata. Queste mi sono arrivate, le ho passate lo straccetto, una bella pulitina con lo sgrassante, tutti i manopoloni, sono tutto il giorno questo, con lo spazzolino pure le faccine, ma sono nuove, te le ho mandate le foto, capito? Ma non mai, ma le devo fare mondezza, guarda, ti saluto perché veramente mi sta facendo schifo questa cosa, ma guarda, te li do a prezzo, non li voglio, ma te li diri, niente, l'ho saltato, anzi l'ho anche già cancellato, poi ho avuto un contatto con un altro, e sono in contatto, infatti mi sta mandando bella roba, ma bella, non mondezza. No, se sono mondezzai anche rovinati le manopole, le cose, no, non fa, però se mai erano solo i fianchetti un po' frati che già si sistema. Vabbè, ti sto dicendo, non sono i fianchetti, sarebbe stata una strozzata per me, perché li avrei smontati i cassoni e me li avrei fatti fare o da Andrea, da Andrea Oceano, che è lo stesso, è un bravissimo falegname, e altri, se ne ascolto lo saluto, ma anche Giulio, ho capito, a tempo perso, ma no, non c'è tempo da perdere lì, una cosa da rifare completamente nuova, ma a parte i cassoni in legno, e anche i frontalini, chi aveva il vetro rotto, chi ne mancava la manopolina, chi ne mancava il coso d'accensione, quelle, senza la 220, io le voglio 220. 220 la radio, non mi frega niente a me di 12 volts, se non c'è radio proprio 220 vintage come ce li ho, capito? Addirittura quella che mi ha dato Gianni Capri 2, il Polman 7000, c'è anche l'alimentazione a 12 volts ed è in originale, è perfetta come radio. Ho provato anche a darle a 12 volts che c'ha l'attacco alla spinetta dietro come l'AN 48 e la radio accende e funziona, però io la voglio 220 perché non voglio mettere alimentatori sull'altra base, devono essere tutte 220, devo alimentare a 220, io tiro su il salvavita e loro devono tutte essere accese, capito? Uno schifo, Robè, uno schifo. Poi mi sta parlando, hai visto quello strumento che mi è arrivato, quel preamplificatore d'antenna della MFG? Quello è lo stesso, quello me l'ha mandato questo ragazzo che mi sta mandando qui, che mi ha mandato i microfoni. Ma roba spettacolare c'ha quello. Quello strumento è eccezionale. L'ho provato, aumenta il segnale di 20 dB ed è 0,30 regolabile della MFG, non è della ZG, una cosa bellissima. No, io ce l'ho preamplificatore dell'antenna, ma è ridicolo, quello che si illumina di rosso quando sta accordando, ma è una gaggata. Ti aumenta il rumore, sembra che ti sollevi il segnale, ma ti aumenta anche il rumore, non è selettivo, è una gaggata, infatti l'ho tolto via. Su. Ma te l'ho mandato quello dell'MFG a te? No, non me l'hanno mandato, ma nemmeno quello del radio mi pare che mi hai mandato qua. No, si ritendi, aspetta ti mando quello dell'MFG e guarda a vedere se l'hai mai visto. Ma è spettacolare, ma sai quante... aspetta metto il lock qua, eccolo qui, ecco. È spettacolare, non l'avevo mai visto, infatti l'ho fatto vedere anche a Natalina, mi ha detto è troppo bello. Allora, devo andare qua. Bello, ma è uno strumento professionale, uno 0,30, ed è veramente molto molto interessante. Questo c'ha roba seria, capito? Non ha roba... eccolo qua. Qua, te lo mando. Guarda questo strumento. 0,30. Ma è bello esteticamente. Poi guarda la scala che c'ha. Le 5 bande, 10, 15, 20, 40 e 80 metri. Col selettore per sollevare quando perché c'è anche il bypass, lo puoi bypassare se non ti serve. Ma c'è il selettore per aumentare i dB in base al segnale che tu hai sul ricevitore. E l'ho provato, non aumenta il QRM, ti aumenta la modulazione e proprio il segnale, capito? Ti fa sentire il corrispondente alla grande. E quello le bande A, B, C, D, E, come mai è così? Quello è 10, 15, 20, 40, 80, sono 5 bande. E poi ti accordi sul coso, su quello, il tunnel ti accordi sulla frequenza specifica. Bravissimo, una cosa professionale, sai quanto l'ho pagato io quello? Ah, una cazzata. Allora me lo fai provare, ma funziona perfettamente. C'è 9 volts, c'è una batteria dietro, oppure le puoi attaccare l'alimentazione a 9 volts. Quindi non me l'ha dato quello perché non l'ha trovato, ma se lo trova me lo manda, però ce l'attacco la batteria a 9 volts. Ma una cosa spettacolare, guarda quanto è nuovo, mai usato. No, non lo conoscevo, bello. Poi se mi stai dicendo che funziona, io il problema di questi preamplificatori, quelli che ho visto io che piacciono a me, costano il truppo, costano centinaia di euro, ma questo qua lo vedo piccolino, abbastanza comodo come funzioni, ma non se ne trovano. Io non l'avevo mai visto, Robè, con tutta la mia esperienza non li avevo mai visto. Dall'MFG comprai tantissime cose, ma quello non lo conoscevo assolutamente. Molto bello, sì funziona, caspita se funziona al 100%, poi nuovo, hai visto quell'antennina che c'ha? Quello non capisco cosa, stavo leggendo l'altro giorno perché c'è anche il manualetto, però non ho capito cosa serve, vabbè comunque, forse per l'impedenza, non lo so, in base alla come ti sposti col selettore, forse è un attacco di impedenza, non lo so, vabbè. Però è molto bello e guarda quanto è nuovo, nuovo. Quello quando è uscito mi ha detto quanto costava 180 euro, io sai quanto l'ho pagato, 50 euro. Bello, complimenti. Ok, se dovessi trovare qualcosa di simile fammi un fisco, questo mi interessa parecchio. Se mi dici che funziona, perché quello che ho io è una gaggata, cioè ti alza il segnale per dire 7 a 9 ma ti porta dietro il QRM, non è che ti migliori più di tanto il segnale, la comprensione della radio. No, vabbè, vai tranquillo, certo te lo faccio provare, ci mancherebbe altro, però non te lo ho se mi serve, perché poi una volta che io faccio tutto quello sicuramente lo metto in funzione, perché sai, vintage hanno una ricezione un po' scarsa, forse perché sono vintage eccetera, quindi quello lo collego e man mano che mi serve, se ho dei segnali bassi, li aumento. Ma l'ho provato proprio su questo Polman. Allora, come si dice, proprio mentre stava parlando Eugenio, allora Eugenio mi arriva a Santiago 9, me l'ha portato a 9+20, ma proprio ho salito il segnale, la modulazione splendida, senza portare sul QRM. Quello è importante, perché è inutile che tu amplifichi anche la sporcizia, che cacchio, ti solleva il segnale ma ti sporta dietro anche quello che c'ho io, non mi ricordo di che marca sia, non è della ZG, forse è della CTE, che si illumina, cioè, non so se l'hai mai visto, che c'è una specie di display, un pannellino diventa rosso, quando sta guadagnando diventa rosso, più forte. No, no, questo si illumina, non ti preoccupare che si illumina, guardalo bene, dove c'è quel pulsantino rosso, quello si illumina, che è il bypass. Poi dall'altra parte, dove c'è la scala, appunto, del selettore della scala, no? E lo stesso lì, hai visto che c'è un rosso, lo stesso, anche quello si illumina tutto, capito? Un bel coso, poi stai parlando di MFG, non se lo vedete di ZG, ma per carità, ma lascia perdere, mi voleva dare anche, ma ti mando, ho dei commutatori, non me ne mandare neanche commutatori ZG a chi non li voglio, dice, ma fa parte di quel pacchetto, tieniti, te li regalali a qualcuno, che io non devo bruciare i baracchini, non mi serve proprio a me il commutatore, ne ho ordinato 2 da 8, belli massicci, quelli ordinati in continente, però 2 da 8 commutazioni, e poi da lì già mi arrangio io a commutare le radio, non ti preoccupare, che quando, come abbiamo già parlato l'altro giorno, io quando chiudo una radio non devo avere lo smitter che si muove nell'altra radio, deve chiudere, un commutatore buono deve chiudere. Perché? Mi ha detto una cosa giusta, deve chiudere, perché cacchio, le ZG sono una grande cagata. Avanti il break. Vabbè, se devo chiudere ditemelo. Vai Tino, ciao, ben sentito. Ciao, è andata la biglietta adesso. Claudio, giusto un controllo di segnale radio, che sto provando un piccolo amplificatore, allora c'è cambiato qualcosa, poi devo restituirlo. Sempre 9+20, sì, da me. Black. Bene, registrato il black, la radio non ha cambiato niente? No, la radio è perfetta. Tieni conto, io sto usando il Polman, quindi può essere non essere affidabile, per dartelo bene devo tornare al K, se mi dai un secondo. Sì, fai, tanto facciamo entrare il break, va. Buonasera carissimi Claudio, Roberto e Tino, ma quanto piacere di ascoltarvi, come va? Tutto bene, qua Michele Falco number one, avanti, ti ha fatto entrare Tino. Cazzo, sì, buonasera, io che onore, questa è una gioia. Va bene, ti mando avanti a Roberto per i saluti, poi mi dai un controllo anche tu da quelle parti, che sei abbastanza lontano. Vai Roberto. Sì, al segnale sei quasi 9+20, però la voce è troppo rimbombante e poi leggermente sotto sento un pochettino di alternata, la voce è chiara, 5, però molto rimbombante la sento la radio, non è la solita tua. Ciao Michele, ben sentito, rilanciamo a Claudio, torre di controllo, avanti per Michele. Tu lo sai Michele che esiste ancora lo Sparviero, quindi perché dici number one? Se qua il number one sono sempre io. Carissimo Falcone, che tempo che ha fatto in questi giorni, sicuramente l'hai portato tu. Lo sapevo che l'avresti detto, oggi vi sto ascoltando, io ho sempre una camerina, ogni tanto la accendo la notte e vi ascolto. Comunque Tino, mi stai arrivando 5 e 7 di segnale, però il mio rapporto non fa riferimento, non fa testa, perché sto usando uno stilo d'acciaio della macchina base magnetica dentro casa e sta già facendo tutti i miracoli, quindi lascia il tempo che trova, vale, giusto, la posizione è buona. Che attacca la tua Sparviero, già vi sento, ho visto anche le antenne che hai, che quando stai piazzando il dipolo, non ho capito che dipolo stai piazzando, a voi invertito, sì o come? Ho provato a guardare col cannocchiale, ho visto che c'è l'antenna scaletta, ma quella lì è. Oh, sono entrato. La scaletta, mica, no, è oggi la scaletta, è già... no, quella, ah sì, la scaletta verticale, sì, quello è il dipolo ragno, 15, 20 e 40, poi ho attaccato sempre lì a Occhielli, ciao Luca, lì ho attaccato quello degli 80 e poi appena più sotto c'è quello dei 60 metri. l'ho tolta la Iaggi, l'ho tolta perché manutenzione, e ho lasciato la 520 per i 6 metri, e poi gli altri già li vedi, dai. 9 più 40 mi stai arrivando, ma sei sempre vicino a me? No, sono più vicino a te, adesso sono più o meno dove c'è Pompugno, dai. Ho cambiato casa, mi sono trasferito già da un annetto, spero non sia appena appena. Poi sono con l'antenna dentro casa, ma boh, non lo so, non so se mi spiego. Non pensavo neanche di potervi ascoltare così, sono anche io una torretta di controllo, è che mettere l'antenna sul tetto qua non so ne parlo nemmeno. Cosa volevo dire? No, un po' di antenne le ho viste, ma non tutte, tutte non lo vedo. Sono appena un pelino più alto del tetto, perché riesco a vedere anche il pavimento del tetto, ma appena, poca roba. Vabbè, rilanciamo a Roberto, poi mi date un controllo, sto niente 9.40. Vabbè, 9 più 35 con i picchi arrivi a 9.40, radio perfetta, di altissima qualità. Ok, vai Tino di nuovo e facci sognare. No, vabbè, non la faccio sognare. No, sto provando, ti ripeto, un piccolo amplificatore che me l'ho fatto provare perché ce l'avevo in macchina, non ho il più 5, sempre più 4, magari la modulazione, vabbè, ha cambiato anche per tuo motivo lì, eh. Non parlare, manda solo il segnale. Lascia perdere il rumore che c'è niente in cucina, eh. Una leggera ventola si sente il movimento, però quel ronzio di alternata non lo sento più. Sì, magari tu hai un segnale. Cos'è, Cla? Ma Roberto, sto dicendo, ti ha chiesto quanto è il segnale. Ah, non l'ho sentito, scusa, quasi 9 più 20, non ci arrivi Tino, poco meno. Quindi praticamente quanto potrebbe dare un 747, dai. Adesso forse si sente, guarda. Ma cosa hai fatto? Non ho capito. Sto provando un altro amplificatore, vabbè. Giusto un po' più grande del 747, però a quanto pare non dà quanto deve dare, ecco perché lo sto provando, hai capito? Ma che lineare? Quello che ti ho detto, un Falcos 500, Claudio. Guarda, sei sempre 9 più 20, ti non esci da lì. 9 più 20 Piero, quindi sempre lo stesso segnale di tutti gli amplificatori che mi hai fatto sentire, quindi più o meno basati su quella potenza lì, cosa vuoi ti dica? Se avesse dato veramente quello che deve dare sicuramente arrivavi molto di più, perché insomma stai trasmettendo con un'ottima radio, stai ricevendo con un ottimo operatore, ottima postazione, quindi il segnale è sempre quello, non cambia. Bene, no vabbè, vai a vedere perché diciamo che sono la seconda potenza, quindi però va a rovinare la radio se va ad aumentare, quindi tanto vale che non smonto e faccio prima. Mi fai vedere a me però, mettimelo la terza a vedere. Guarda, terza, quarta, quinta, ecco la sesta. No, sino alla quarta la puoi tenere, è vero, da 9.20 quasi a 9.25, quindi non è come stanno dicendo. No, lo so, io... così tu dici? Ma guarda i picchi? No, vabbè, non mi interessa, è giusto per... perché io vedo il negativo qua, Claudio, a me. No, a me no, a me sei positivo, da 9 più 20 a quasi 9 più 25 in quarta marcia, mentre rimani stabile con leggeri picchi positivi sempre, quando lo tieni in seconda marcia. E perché devo dire fesserie? E la radio non va a peggiorare? Non distorce? Assolutamente no, nel modo più assoluto. Rimane buono. Beh, allora lo posso dire a chi lo dovrebbe usare, capito? Tenerlo così e vedere un po', poi bisogna vedere anche con che radio lo utilizzano loro. Quello è molto importante, l'ingresso, la radio, eccetera, però non dicano che non c'è. Cioè, qua sino alla quarta potenza lo puoi tenere, e l'aumento, l'incremento c'è, ok? E la radio rimane invariata, dalla quinta in poi inizia a saturare. Michè, sei 9 più 40, te l'ho già detto, 9 più 40 pieno, quindi tieniti quell'antenna e non rompere le scatole, se no quell'antenna che ho io te la giro sopra. Aspetta però Michè, qua mi sta arrivando Sant'Eussì e la radio è bassa, quindi alza l'antenna e la sua perdere a Claudio. Io sono l'antennino di macchina, è troppo alta, adesso con 5, giusti, prima ho fatto stare un po' avvistirato, ma sono a 5, la macchina. Comunque sta arrivando bene di radio, Tino, anche quando aumentavi, diminuivi il segnale non variava molto, 7 e mezzo, però andava bene. Vabbè, la radio, Roberto, l'MC43 non è niente. senti, il 60 ce l'ho, l'ho lasciato da la WTH, non sai che non lo porto, lo gioco. C'ho il coso, la saponetta. E cosa vi volevo chiedere? Volevo chiedere una cosa, ma ricordo più. Ah sì, Claudio, ma no, Claudio, Tino, ma stai usando sempre la radio che conoscevo io o hai cambiato? K sembra sempre K, mi sembra, dalla modulazione. Io allora già avevo l'850, fermo, comando acceso, è rimasto sordo, display se n'è andato, a farsi benedire, insomma una cagata. Lo ISFT, vabbè, quadribanda, quello che facevo un po' tutto, che era il più nuovo, il display si vede un po' spento, a pezzi, è diventato lo stesso sordo, in qualche banda non riceve più, insomma si sono tutti rovinati, tenendo gli display in casa. Il 140, che era più vecchio di tutti, cioè questo qui, non si è piegato un baffo, niente. Cioè io sono rimasto meravigliato, cioè questa sarà la radio che sicuramente si sarà danneggiata di più. Questa qui funziona come quando l'ho lasciata, ma Bianco ne ho fatto, parecchi anni. Cosa ne pensi, Cla? Scusa, no, forse è meglio rilanciare a Roberta che era un po' in bianco. Roberto, tu cosa ne pensi? No, assolutamente d'accordo con te. Sono le vecchie radio di vecchia generazione, infatti anche Claudio l'ha detto tante volte, abbiamo avuto lo stesso discorso. Il 140 è il più economico, diciamo, di quella serie della Kenwood, e tutti puntiamo sul 440 perché è, diciamo, un po' più performante, un po' più silenzioso, meno rumore prende, però c'ha tanti difetti. Il 140, come ha detto sempre Claudio, e detto anche io perché c'ho anche io il 140, quello lo tiene spento 3 anni, riaccendi e andrà sempre. Il 440 bisogna stare un po' attenti, quando lo tieni spento un po' inizia a darti problemi, soprattutto per parto condensatori. Il 140 è un mulo, come si dice in certi campi, un mulo indistruttibile, ricude a terra e cammina sempre. Cioè non è molto buono, ma ancora importante perché siete tutti e tre vicini. Aspetta che sono Michele, perché no, io sto usando un baracchino, non è il K, se vuoi te lo faccio sentire dopo. Questo è un baracchino, è un HR5005. Brick break. Sì, registrato il break. No, molto bene, allora va molto bene l'evoluzione. Ciao Luca, non t'avevo sentito. Ben sentito, buonasera anche a te. Avanti il break, che se non sbaglio è... mi ricordo il nome, Mariolino, no? Ma non lo ricordo. Avanti il break. Ricardino, mi chiamano così, 27. Aspetta, Riccardo, adesso ti sento di radio, anche molto molto bene. Di solito sentivo, se vedevo il segnale alto, ma la voce non si sentiva. Adesso vai molto bene, complimenti, hanno fatto un buon lavoro. So tutto lì che dovevano fare il microfono. Vai, Cla. Eia, voglio rilanciare a Luca per salutarti, poi Luca, rilanciami il microfono, devo rispondere a Michele, vai Luca. Eia, ciao Michele, saluto anche a te, da, mi hai sentito. Sì, avanti, vai. Allora, io ho sempre detto una cosa, io ce li ho tutte e quattro, anzi ce li avrevo tutte e quattro, adesso ce li ho tutte e tre, oh Michele, c'ho il 430 che è questo che sto trasmettendo adesso tutto il giorno. Ho deciso oggi di trasmettere il 430 perché è sempre spento anche questo. Il 430 è simile al 140 e al 680, tu lo lasci spento per un sacco di tempo e lo riaccendi ed è sempre al solito posto. Ok, il 140 e il 680 non se ne parla, io ne ho recuperato uno di 140 che era 3 anni fermo dentro un armadio, chiuso dentro un armadio. Quando mi hanno notato mi hanno detto guarda, io te lo sto dando, l'ho pagato, però mi ha detto se vai a casa e non funziona vieni che ti restituisco i soldi. Sono andato a casa, l'ho acceso e come il giorno che praticamente l'ha spento, nello stesso canale l'ho trovato spento e messo dentro l'armadio. È un muro, il 140 è una radio veramente da tenere un'eternità. Io l'ho comprata veramente per tenerla di nuovo, come il C80 che è uguale a 140, però c'è la scheda SVT, Michele, lo sai, no? Il 440 di tutti quelli che ho avuto negli anni, non mi posso permettere di lasciarlo una settimana spento, non dico 2 anni, una settimana spento, perché se lo accendo ho il timore che ci sia qualche problema sul display, il tipico, no, kit dei condensatori, va a casino. È una radio bella che a me piace da morire perché ce l'ho anni, ne ho avuto 8 di 440, ma ho sempre il timore di tenerla spenta, ok? Io la spengo per dire mezza giornata come oggi è spenta, sto usando 430, domani domani devo già accendere e usare 440, perché altrimenti ho sempre quel problema, non c'è niente da fare, è una radio bella, funzionante, ma una grandissima radio di merda, scusando il termine. Vai Michè. Sì, sì, sono d'accordo con te, Cla. Io, guarda, sono rimasto veramente, cioè mi è dispiaciuto che l'850, che comunque non è molto più vecchio di questo, abbia avuto quei problemi. L'altro ne parliamo, lo Yaesu mi piaceva tantissimo, con questo termostattato, VU, cosa c'erano lì, i 60 MHz, HF, molto compatto, non, era un treno. L'ho lasciato, quando siamo stati 10 anni fermo, l'ho riacceso, tutto ingessato. Questo ce l'avevo, forse ce l'aveva 30 anni, io non mi ricordo quando sono uscito, quanti anni fa sono usciti i 140, forse questo qui ce l'aveva 30 anni, lo usavo a sbalzi, poi l'ultimo bianco l'ho durato 10 anni, da 10 anni non l'ho più acceso, l'ho riacceso, perfetto, come nuovo, non riesco a spiegarmelo. Quanti anni c'è? Chi è che se lo ricorda il 140? Questo qui è il secondo che avevo comprato. Il primo, questo qui l'ho comprato perché il primo c'era danneggiato, qualche cosa, e allora bisognava spedirli, non sapevi quando si ritornava, ne avevo comprato un altro, che è questo qui. E poi quando me l'hanno riparato l'ho venduto il primo. Ma questo c'ha da 30 anni. Cosa ne pensi di Cla? Te lo ricordi tu? Scusa Cla, che devo mollare qua, dai. Me lo devo spostare, riprendevo un attimo il microfono, così do una dritta, insomma una cosa così a Michele. Michele, questo è l'altro, è quello che forse hai conosciuto tu, appena più superiore, dai, di numero, anziché il 44 e il 45. Va bene, dai, mi devo spostare, scusatemi, nel caso ci sentiamo più tardi, eh. Ottima, si è chiuso due punti di segnale, due punti in meno, 5, prima era 7, però la radio è molto più aperta. Vai Cla? Sì, c'è stato qualcuno, lo vuoi il 440, ma perché è una radio di merda o perché ti piace? Poi mi risponderai. Michè, io praticamente il primo che ho comprato da Mario Notari è il 430, il Clash 430 che ho ancora, ok, quindi per farti capire. Il 140 io lo comprai dopo, quindi negli anni 90, però suppongo che sia uscito in quegli anni lì, insomma, 88, 89, 90, non lo so, 90, non lo so, io l'ho comprato negli anni 90. Non mi ricordo esattamente, però negli anni 90, non so se 91, 94, non mi ricordo, perché nel 92 io ho preso la patente radioamatore e avevo il 440 già, perché l'avevo comprato lo stesso da Mario Notari, quindi penso che sia una radio degli anni 90, però tieni conto che è la numero uno in assoluto di quella serie lì, sia quella che il C80, sono dei muli indistruttibili, io non ho mai messo una lira sul 140, facile anche da manutenzionare, non hai problemi del VCO, non crea quei problemi lì, puoi fare quello che vuoi con il 140 e col C80, e ti si può inchiorare un relè di commutazione, vai e lo compri, 2 centesimi e te lo sostituisci, capite, molto più facile. Il 40 è una cosa allucinante, veramente. Ok, il cambio per Roberto, poi vai per Luca o Roberto. Sì, confermo, perché ce li ho due, di 440 ne avevo due, hanno dato sempre problemi, e quest'ultimo già sta funzionando bene, già qualche anno, però gli altri hanno dato problemi, poi sono stati riparati, ripresi di nuovo problemi. 140 io non gli ho mai fatto niente, quando me l'hanno venduto c'erano i finali partiti, ma stiamo parlando 15 anni fa, è sempre quello, io non l'ho mai toccato per niente. L'unica cosa non piace del 140 è che secondo me è troppo rumoroso rispetto al 440, e poi quel cacchio di regolazioni del Mickey Gain e della potenza sono ridicoli, dovevano farli rotativi e sicuramente avrebbe guadagnato qualcosa come facilità d'uso. Sì, Robert, sono d'accordo con te, però credimi che io posso dire vite miracoli dei quattro vintage, perché ormai sono quattro vintage Kenwood, li conosco molto bene, esternamente e internamente, quelli che veramente non creano problemi sono il 140 e il 180. Anche il 430, insomma, materiale di usura, a me mi si è, per dire, è spento l'ultimo decimale del display, Fabrizio me l'aveva messo nuovo, un po' di manutenzione del genere, ma non è mai stato fatto VCO in quella radio, assolutamente. Mentre il 440 è stato già fatto due volte. in Ucraina e poi vai per Cardini. Volevo dire a Michele che sta arrivando, no? Fa un passaggio Michele. Guarda un po', 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ah, si è abbassato però. Ho toccato un pochettino, sì. Aspetta, prima non sono andato più di così. No, quasi è troppo. Va così? Quasi 9,20 sei, carta. Sono 20. Come? 20 watt. Anche io ho 20 watt, ma so, anzi anche di più. Quando ti sto arrivando io, no, un po'? Prova. 9,5. Vabbè, ma dipende dagli smitter quelli. Aspetta che scendo a 5. Così sono 5 tonni. 9 spaccato. Ma se parlavo dell'antenna elettroccata arrivi benissimo Michele. Non c'è dopo. Vicino a te, Ale, mi ha detto, più o meno vicino a Pomponio, là. Sei di fronte a Pomponio lì, di fronte a Pomponio, di fronte al Conte, dai. Ah, ho capito, no? Di fronte a quel porco, sì, Michele. Di fronte a una cosa che gira una friggitrice di corrente, insomma, mi sta mettendo le mia. Prima c'avevo un affilare, no? Ma non lo ricevevo pochissimo, infatti non modulavo neanche, ma quando ho messo questa che sta risuonando molto meglio, ho trovato anche la zona giusta, perché ovviamente non l'ho tarata guardando lo smitter, l'ho tarata guardando il segnale. Quando ho visto che i segnali entravano bene, allora ho capito che stava risuonando al meglio qua dentro, e allora con l'apparatore poi vabbè, sono sceso da 1,5, da 1 a 1. Sta andando, la posizione è buona, ma è dentro casa, infatti la zona è fenomenale questa. Ma c'è questa centrale di trasformazione che vuole, è presa e spostata a Canega, non va qua. No, non fa. Se tolgo il filtro NB, NB1, sembra di avere una motoretta, non esiste. No, non esiste, pensa se avessi la Mantova, cosa ti fa portare a Belenza. Ma lì scorre per montare l'antenna, vediamo solo che sì, lì antenne molto molto difficile, KK. No, anche Riccardino, come ti arriva Michele, lo senti? Sì, lo sento, però ho guardato lo smitter, se mi fa un piccolo passaggio. Michele, hai sentito Robert, amica Riccardino? Vai Riccardino, scusa, ero al cellulare, dimmi, vai Riccardino. Ti stavo chiedendo se mi senti. Sta arrivando 5,9, 9 tondi, ma hai migliorato anche il segnale, mi sa che aveva visto prima, ma non ti sentivo di modulazione, io ribassi proprio sul pelo del cuscio, adesso invece è molto più chiaro, ma che microfono stai usando? Sto usando la radio uguale alla mia, il 400, il un dai, già mai capito, con un 60, però è chiuso. Perché non è, cioè con 60 è un po' chiuso, no, ma va molto bene, quella è, va benissimo. Sì, c'è un problema al microfono, quindi lo deve sistemare perché fischia, capito? Tutto qua. Vabbè, è lì antenna i buoni che non c'è niente da fare, dove la metti? Assolutamente, comunque per fare due chiacchiere così già va bene, dai, qua ce ne vuoi più 40, così è che Roberto in Mantova è 9,60 e tu con l'antenna interna sei 9,40, quindi arriveresti quanto è lui. Va bene, dai, io ho il microfono, quindi ne approfitto perché non ho ancora cenato, stavo sistemando qua, perché poi domani mattina c'ho altro da fare, non sono manco a casa domani mattina. Devo fare alcune cose di QRL e quindi mi ho sistemato tutto, ho messo tutto in ordine e quindi ancora non ho cenato, ma ho già chiamato mia moglie a cenare. Michele, che te devo dire? È un piacere grande, immenso averti riascoltato dopo tanto tempo. Un abbraccio grande, sai dove sono, quando ti vuoi far vedere ormai un caffè ce lo possiamo prendere. Quindi mi fa piacere, un immenso piacere, riaverti ascoltato dopo tanto. Ok, un abbraccio grande, ciao anche a Robby, vabbè, al limite già ci vediamo domani, come sempre, ciao a Riccardino e ciao a Luca. Ascolto i finali, poi chiudo, cambio per Michele allora a chiudere. Ciao a tutti, buon fine serata. Ehi, ciao, stavo un piacere enorme, lo stesso a parte mia. Volevo sapere, intanto che ascoltavo col traduttore di Torino, ma non c'avevo niente. Poi c'era questo periodo di cavolo, ma non ce l'ho quasi mai in radio, ero quasi sempre TV, leggevo su internet, ho visto che ogni tanto c'era qualche po' di attività in radio, ma poca roba. Mi sono un po' documentato sulle novità, sulle radio, cosa è uscito, cosa non è uscito. Mi sono scoperto che c'erano un paio di antenne che non conoscevo per niente, le sono un po' lette, ma antenne particolari, adesso non mi ricordo neanche i nomi. Sai, comunque il caffè già ce lo prendiamo, aspettiamo che si riprendano un po' questi dibattiti che sono tutti lì con le distanze, il metro, ma secondo me fra un po', come ci sarà quel caldo, arriverà il caldo estivo, se tornerà tutto normale, dai. Poi vabbè, il problema sarà dopo, poi si ritorna a settembre, anche perché iniziano a girare tutti quanti con l'aereo avanti e indietro e nave, che ci ritornerà sicuramente. Vabbè, dai, comunque anche io sto per scappare, devo preparare qualche cosa per la cena, e aspetto la signora. Dai, rimando tutto a Riccardino, fai girare tu Riccardì, io vi ascolto un pochino e poi vi saluto. Ciao ancora Claudio. Ciao, un abbraccio a tutti, vai Riccardo. Ok, grazie Michele, a risentirci alle prossime, comunque anch'io vado in carica e ci sentiamo più tardi. Ciao a tutti, ciao Luca, Roberto, Claudio e Michele e a tutti gli altri in ascolto anche. Ci sentiamo più tardi, ciao a tutti. Ok, riprendo io, ciao Riccardino, buona carica anche a te, io tengo un po' acceso, se nel frattempo rimane qualcuno io ho già mangiato, dai, una cosa veloce. Ciao Claudio, ben sentito, dai, eventualmente ci sentiamo domani. E ciao Michele, se stai andando via anche tu, dai. Io tengo acceso, se nel frattempo rimane. Ah, forse c'è Luca, dai, avanti Luca. Io saluto ma non mi trattengo neanche un po' perché sono incasinatissimo. Ciao Roberto, Claudio, Riccardino, Gianni e Pinotto. Ciao. Riccardino, c'è il segnale più forte di tutti qui da me. Wiki wiki, non si saluta. Ciao Walter. Ciao Riccardino, 9 più 15, il segnale più forte, di più forte di Claudio, di tutti. Chi è sotto, basso basso? Forse io. No, no Tino, tu sei 9 e 20 quasi. No, io sono Falco number one. Carissimo, carissimo, l'altro giorno ti stavo beccando su, come si chiama, quel programmino che c'è su internet, stavi chattando con Popone su CCB Talk e poi invece mi sei scappato, sempre fuggendo, riparando apparecchi, troppi ne hai, uno solo devi riparare, uno. Ne ho un po', un paio. Ciao Michele, anche tu fai parte di quella categoria di guasti spariti, adesso col coronavirus che eravate chiusi un po' di ritorni, ma dimmi tu. Comunque ti saluto e ci sentiamo, devo chiudere perché sono impegnatissimo. Fatti sentire, tutte le parole tanto che posso sprecare sono sprecate veramente con te. Lo sai come la penso, ciao. Sì, pensava bene, che ancora dobbiamo vivere con questo coronavirus. Vabbè dai, io scappo, vi saluto a tutti e a presto, ci risentiamo a presto. Mi raccomando, fate qualche questione costruttivo, parlate un pochettino di novità, di esperimenti, di cose. Ti ascolto ogni tanto, insomma, siete di boh, non lo so, ma cosa io volevo dire? Boh, vabbè dai, riprendi roba. Ciao amica, ben sentito, dai, le prossimine. Avanti alla torre di controllo di San Giovanni. Ciao Walter, ben sentito anche a te, vai Tino. Sì, lui, ciao Walter, ciao. Ciao, vai là, qua a casa, rimango in quel rizzo, vabbè. Dai, ciao a tutti, ciao Falcus, ciao Riccardino, sei più forte, ciao Riccardino. Arriva 9.15, 9.16, tu arrivi 9.20, Tino. Va bene, devo chiudere, dai. Sto cercando a Giovanni, a quella testa di rappa, UJH, come si chiama qua, Roberto? No, l'ho sentito, Giovanni è andato in paese, a Torralba, a Bonnana, lui è sempre di lì, c'è la campagna da quelle parti lì, ogni tanto va, vediamo bene, dai, che riesca a rientrare. No, no, l'ho visto io, l'ho visto, cosa... sono andato anche da lui, c'è la Mantova 1, ma è... Oh, yeah. Faccio l'accosto sempre a una campana. Ma è una Mantova con l'antenna, perché io ho detto, non mi sembra una Mantova, perché c'è solo lo stelo centrale, Sì, perché i radiali si sono polverizzati, ma è una Mantova, è una Mantova. Comunque, l'ho riparato la radio, ma non riesco a trovarlo adesso, stasera ero da lui, 07. Metti anche le condizioni di uscire, dai. Già c'è qualche apparato in disuso, glielo dai un'antennina, così almeno passa un po' di tempo. No, gli ho riparato la sua. Gli ha riparato la radio sua? Sì. E come non usciva? Cosa c'aveva? Meglio che non te lo dica, c'è da pigliarlo, cacci, lo dico io. E che poi per l'età lo rispetto. Non so se è stato lui o chi è stato, te lo dico. Al posto dell'Enne gli ha infilato un piede dentro, ha sbucciato tutto lo stelo. Beh, ci credi che gliel'ho detto? La prima cosa che gli ho detto, quando me l'ha portata a me, a vedere, no, questo è così. Allora che quel piede c'ha problemi, no, non c'ha niente, e gli ha infilato dentro il coso, questo è il suo, ha detto, boh. La prima cosa che gli ho detto, vedi che cazzo stai confermando tu? No, ha infilato un piede, l'ha tutto slabrato, piano piano, poi sono riuscito a recuperare con un cacciavitino a taglio, gli ho ristretto tutta la rosa, e adesso gli ho messo un attacco N, è normale, funziona benissimo. No, veramente, la braccia intera, mi ha fatto perdere un sacco di tempo. Va bene, dai, ci sentiamo. Cioè lui ha fatto entrare il PL259 nell'attacco N, figurati cosa ha combinato. Meno male sono riuscito a salvare, perché io poi non sono un tecnico, non so riparare niente, queste cazzatine posso fare poche altre cose, se no faccio quello sbagliato. Va bene. E io ciao Walter, ben sentito, dai, quando è tempo già siamo qua. Ok, Tino, cosa sei, in quel Rex, non ho capito. Sì, dai, quando c'è un minuto di calma anche io entro, no? Molte volte c'è un po' di bailame, quindi evito di entrare per non disturbare anche gli altri. Ciao Walter, ciao. E ciao anche a Luca, se non mi sbaglio, che c'era poc'anzi, ma non sono riuscito a salutarlo. E Luca ogni tanto entra, poi esce. Luca, ci sei? Aspetta, facciamo la chiamata generale sul 10, se c'è qualcuno, se no anche io rimango qua in ascolto, se entra qualcuno, se no rimango un pochettino e vado a fare altre cose. Attenzione, canale 10, chi vuole entrare? Alla PDL. Mi Antonello. Oh. Come va? E dove sei Antonello? In cantina, sì, Antonello. No, sto usando la macchina a modo cazzo. Perché con il microfono su fa schifo, ci ho messo le 10, sto fuori in cantina, questo parecchio è così, come quello della salita. Cazzo, ti sei passato un bel di segnale e la radio è blu, si capisce ma è strano. Lo so, fa l'effetto soffocante, già lo so. Ma anche solo la pelle è la stessa cosa. Non c'hanno LC queste macchine qua, capito? Sono qua, la canale di AM, fermo e passa. Sì, ma non si sente niente, cioè mi sembra che questi baracchini di nuova generazione non escano di radio. Sono più incerto, capo. Così, fatto così questa macchina, magari è a ferme, vuoi provare, facciamo la prova, vediamo se esce meglio. Antonio, sembra che stai parlando con la mano sopra la bocca e il microfono attaccato alla mano, proprio una modulazione strana, molto, molto sporco. Sì, a prova in FM a vedere. Aspetta un attimo. Sì, com'è in FM? Sempre come quella bruttina, niente da dire, non mi piace. È comprensibile, però è come che tu parli uno, due, tre, solo. Non lo so, aspetta che ho il microfono normale, così vi faccio vedere che picchio. Aspetta un secondo. M, pronto. Io vado la M. Oh, è strano, cioè a me non mi dà spiegazione, cioè che un baracchino omologato esca così male, cioè senza modulazione, senza niente, non ha risposta in frequenza, è zero. Guarda, questo è il microfono normale. Un po' meglio, un po' più alta, però è strozzata sempre la modulazione. Ma troppo vicino alla bocca ce l'hai, come stai parlando Antonio? No, 10 cm dalla bocca. Un po' meglio questo microfono, un po' più forte, un po' più chiara, però è sempre una modulazione strozzata, sembra quando stai saturando quando attacchi un lineare. Non so, è fatto così questo qua, come ce l'ho io ce l'ho anche l'altra lì, lo stesso tipo di microfono. Che apparato è? La 150 ohm, sembra la capsula delle portate del VHF, quello per ascoltare. Scusate, il Polmar è quello? Sì. Beh, robe, ce l'ho anch'io, esce così, proprio, c'è una capsula schifosa. Vabbè, ma cazzo, ho provato due microfoni diversi, ma alla faccia, non per criticare, ci mancherebbe, Antonio già lo sa che a me, diciamo, non mi piace criticare, però, dico, mi sembra un controsenso, cioè, ti danno un baracchino nuova generazione, posso capire, entro i limiti di legge, molto limitato come modulazione, ma cazzo, sembra che non stia uscendo. lì c'è la strozzatura della LC da aprire, capito? Però poi perdi l'omologazione, dai, riprendete. Vabbè, anche la 48 è omologato, però cazzo esce, io quello che esce, il portate è l'Endicom mio, mi faccio sentire il mio Endicom e il portatilino palmare, ed esce, cacchio. Infatti bisogna intervenire lì. Ma io non ho fatto niente, io sono tutti originali, mai toccati i baracchini. Sì, ma quella della mutua mia è proprio una cosa vergognosa, ce l'ho anch'io. È vergognoso. Ah, sono cinesi. Andiamo, non c'è mai col clima della LC, figurati tu, c'è solo il clima dello Smith in transizione, quello di cessione, e poi c'è il B, come si chiama, quello per l'FM. Altri clima non ce ne sono. Ma cosa è cinese questo baracchino? Cinese no, no, c'è italiana, ma cazzo c'è. No, ma dove c'è scritto produzione, dove lo produco? Non ci sto toccando. Io la Polma lo conoscevo, era un marchio storico degli anni 70, forse anche prima, ma adesso cosa si stanno arrivati a fare baracchini? Sì, magari è cambiato, dice, cosa ne so. Questa è Polma ZX40 Pro, ALFM. Ho dato 98 euro. Quanto? 98. No, beh, il prezzo già è basso, sicuramente è conveniente, ma cosa c'hai? Come si chiama? E 40 canali? 40 canali se ne possono avere anche di più, però non lo so, non me ne frega niente. C'è lo schema della modifica, tutto, lo schema elettrico, ma no, lo lascio così com'è, ho colocato. E certo, che cosa te ne frega? A quel punto usi altre radio, se vuoi avere qualcosa di meglio, chi cacchio te lo fa fare? Infatti, perché sta con l'altro adesso, va? Di solito attacco adesso, così almeno esco come si deve, aspetta un attimo. Sì, allora esci di modo migliore, dai, come Marco, dai. Marco c'ha una modulazione, è una delle migliori qua in frequenza. Proprio me, col microfono originale poi. Luca Lucariello, ci sia l'ascolto, mi copi? Sì, Marco, sì, ti ascolto. Vabbè, come ti sembra? Questo è il mic originale, sempre il mic originale, distanza 3 dita dal mic. Bella radio, se metti un amplificato lì, guai. Ma ce li ho, ma non li uso, non mi piacciono gli amplificati. Alla fine me li ho comprati per attaccarmeli, già lo sai. Sì, esce bene, abbastanza bene, di lusso. Degli amplificati, la più bella c'è la dei baracchini amplificati, la più bella è Luca, non perché c'è lui, gliel'ho sempre detto. Mentre questa è normale, la tua è una delle più belle in assoluto. Cosa, dei baracchini parliamo. Guarda, a me personalmente, saluto ancora tutti, perché io sono avanti e indietro. Allora, a me piace molto come esce Franco di zona Viale Sicilia e Gianni col Galaxy. Cioè, io sono sempre puntato lì, le più cristalline. Cosa ti dica? No, infatti stavo dicendo, aggiungevo anche Franco, non dico sia la più bella, ma se la gioca con le prime tre se la gioca. Franco mi piace perché c'ha un giusto abbinamento con quello Shure, è proprio una bellissima radio. Poi se parliamo di altri generi radio ce ne sono altre, però dei baracchini le tre più belle siete tu, Luca e Franco. Ma questo non è il 3009, Robè. Ho detto a Franco bisogna fregarglielo con lo Shure, No, c'ha una voce molto naturale e pulita, mentre dalle amplificate quella di Luca è cacchio una bomba. Urudru. Ma che cosa esce bene? Mi piace anche la modulazione del Profeta, una bella radio. Sì. Però caspita, Franco, guarda, lo Shure è impagabile, io l'avevo sentito 30 anni fa, era di una limpidezza, magari sì, non è eccessivamente amplificato, ma è di una limpidezza disarmante. Sì, confermo al 100%, mi piace tantissimo. Come adesso ha migliorato tantissimo Giulio con l'apparato diciamo più evoluto, con quell'MB4, c'ha una bellissima radio, molto naturale come la sua in natura. E mi piacciono le radio così, a me le amplificate sì, certo ti fai sentire più forte assolutamente, però ce ne sono pure troppo esagerate, e c'è un po' di sporcamento di cosa, di modulazione, ti dà troppo esaltazione magari di certa tonalità. Io dico deve essere possibilmente come al naturale la cosa. E anche Riccardino adesso quando attacca l'altro microfono, gli ho dato a Fabrizio, gli ho dato un MB+5 che glielo colleva con l'apparato, perché adesso sta uscendo senza amplificazione, però anche Riccardino nel suo piccolo si fa sentire più che bene. Dai, riprendete, ma Riccardo ha risolto che stava innescando, mi pare, stasera. Io l'ho sentito 5 minuti a Riccardo, poi Michele poco fa, cazzo, una radio da paura, lo stesso pulita, bella chiara. Ah, zona tipo Conti, sì, L'ho sentito, usciva bene, non so se ci sia ancora, lo saluto, ciao Michele, riprendi se ci sei. No, si è spostato, credo che sia andato a mangiare, col microfono suo originale, M43, una bellissima radio, pulita, senza niente che crei problemi. Poi ci sono certe radio, no, per criticare, che non se ne comprende nulla, molte volte dici, ma chi sei, dove sei, cosa stai facendo, un fiorito. Ho finito di mangiare, sono tornato. Che tempo così veloce, Riccardini, anche Riccardino nel suo piccolo grande impianto c'ha una bella radio, aspettiamo qualche giorno così, quando lo sentiamo con un microfono un pochettino più potentino, dai, comunque sta uscendo alla grande, Riccardo, vediamo se c'è quel disturbo di ieri, Riccardi, con l'alternata sotto. Cosa devo andare, importante? Sì, prova. Perfetto, si sente anche un bello suono. Ieri quando scaldava con la radio, secondo me con l'alimentatore c'è qualche problemino, lo stavi tirando un po' troppo, poi già l'indicazione che ti